Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Sono Salvatore e siete all'ascolto della seconda puntata di Olimpiadi Insostenibili, il nostro approfondimento dedicato allo scempio che si sta compiendo sulle Dolomiti e a Milano per le Olimpiadi Invernali del 2026. Con me c'è Ivan che saluto. Ciao Ivan. Ciao Salvatore, ciao a tutti e a tutte. Nostro ospite di questa puntata è Fabio Tullio, attivista per i diritti umani, impegnato sui temi della giustizia sociale e ambientale, educatore sociale di politiche territoriali e nelle scuole del territorio, presidente di Lega Ambiente Treviso e collabora con Lega Ambiente Alpi. Ciao Fabio. Buonasera a tutte e tutti, ciao Salvatore, ciao Ivan. Ciao. Grazie per aver accettato il nostro invito e per partecipare a questo nostro approfondimento Olimpiadi Insostenibili. Grazie a voi dell'attenzione sempre se costante su temi, insomma, così importanti, ambito sociale, ambientale e anche economico, come vedremo in questo caso, insomma. Fabio, scusami, partiamo con la prima domanda, perché sono attese almeno mezzo milione di persone per l'evento olimpico. Che impatto può avere una così alta concentrazione di persone in località diciamo fragili dal punto di vista ambientale? Beh, diciamo che se pensate appunto a una località come Cortina d'Ampezzo, che è in una conca, e a me piacciono parecchio i numeri. Basti pensare ad esempio che in una conca, appunto nelle Dolomiti, viene chiamata la regina delle Dolomiti perché effettivamente è in un luogo incredibile, la cornice che è attorno. È meravigliosa, dalle Tofane al Cristallo fino alle Cinque Torri. E diciamo che parlavo di numeri, no? Pensavo che gli abitanti sono più o meno adesso poco più di 5.000 persone per 50.000 posti letto, ecco, disponibili tra seconde case, alberghi e strutture ricettive. La questione che più mi fa riflettere, no, quando penso all'impatto dei visitatori, dei turisti, è in particolare la gestione dei reflui. Beh, andiamo in bagno e capiamo come viene gestito, no? Tutto ciò che potenzialmente può essere fonte di grande inquinamento. L'abbiamo visto con delle inchieste anche recenti dei giorni scorsi rispetto appunto a una corretta o amena gestione appunto dei reflui e delle acque grigie, delle acque nere in ambito alpino, e capiamo quanto sia rischioso ovviamente per i corsi d'acqua, per le sorgenti, no? Che noi pensiamo di andare in vacanza in un ambiente incontaminato quando ormai incontaminato non lo è più. E quindi basti pensare a questo dettaglio, che può essere, sembrare un dettaglio, no? È anche un po' di cui poco si parla, delle deiezioni si parla poco perché forse no. Un po' spaventa, le Escherichia coli, ecco, ma di fatto andiamo in bagno tutti. Ecco, l'impatto che può avere un evento del genere, banalmente, ripeto, sul tema dell'accoglienza dei turisti, è enorme, soprattutto se pensiamo alle alterazioni irreversibili, ad esempio legate ai parcheggi, che anche in questo periodo, no, ai cantieri che vengono aperti, ma al trasporto di tutti quei beni di prima necessità che sono necessari. Ripeto, non parlo tanto di Milano, perché Milano è una città e dal punto di vista logistico ovviamente ha un sistema adeguato, no, di approvvigionamento, ma pensare a Livigno, pensare ad Anterselva, pensare a Cortina, ovviamente significa muovere tir, muovere molti mezzi che trasportano, quindi incrementare non solo l'inquinamento potenziale, no, dell'acqua causato magari da uno scorretto, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, trattamento delle acque reflue, ma anche l'inquinamento atmosferico e acustico dato dal traffico veicolare. Di conseguenza, ripeto, è una un approccio deve essere un approccio alla complessità, no? E quindi uno dei motivi per cui, come associazioni ambientaliste, la Lega Ambiente, Montreal Wilderness, CAI, Cipra, Italia, eccetera, una grande attenzione avevamo richiesta rispetto alle valutazioni ambientali strategiche delle opere, no? Proprio per valutare quale sarà l'impatto sia delle opere sportive in sé, sia delle infrastrutture necessarie per il compimento di queste opere, e quindi anche legate all'accoglienza, accoglienza che è sia degli spettatori, ma anche delle troupe, delle squadre, quindi veramente sarà un movimento di persone non indifferente, in località già sotto pressione, ecco. Sì, Fabio, a proposito di strutture di accoglienza, sappiamo che per costruire queste strutture c'è bisogno di spazi. Per fare spazio sono stati abbattuti alberi. Certo. Si riesce ad avere una stima degli alberi abbattuti? Allora, una stima generale non mi risulta esserci, quindi un totale di tutte le aree interessate dalle gare olimpiche, insomma, quindi diciamo che una mappa si può ricercare anche in internet e anche nel report Neve Diversa, anche di quest'anno che uscirà il 13 marzo, potrete trovare proprio una mappa che va a localizzare tutte i siti, okay, dove verranno svolti i giochi. Non si ha un numero complessivo, e motivo per cui, ritorno a quanto dicevo poco fa, una valutazione generale appunto di impatto di tutte le opere previste sarebbe stata necessaria, anche per questo, capire, per fare poi un bilancio, no? Un bilancio arboreo di quante piante poi sarebbe state abbattute, e soprattutto appunto della necessità di consumo di suolo, no? Quindi un totale generale. E adesso l'unica operazione che si può fare è andare a spacchettare opera per opera, quindi andando a prendere i vari DPCM, i decreti ministeriali, dove sono elencate i vari interventi, ma comunque non è molto facile, e qua c'è un tema di trasparenza. Ritornando a dei numeri legati agli alberi abbattuti, porto sempre il caso della pista da bob di Cortina, e là stiamo parlando di oltre 600 larici. Principalmente l'attenzione sui larici, perché sono delle piante, in questo caso buona parte di queste erano secolari, insomma, quindi diciamo che difficilmente potranno i loro benefici, quelli che vengono chiamati servizi ecosistemici, non potranno essere sostituiti da queste che vengono dichiarate, si dichiara che verranno piantumate 10.000 nuove piante entro l'inizio dei giochi, cioè febbraio del 2026, del prossimo anno. Quindi 600 larici adulti, secolari, recano un beneficio per la collettività molto superiore rispetto a 10.000 nuove piante, e buona parte di queste, come tanti forestali ci potranno documentare e dettagliare anche scientificamente, non si equivalgono, diciamo, quindi è una perdita irreversibile anche in questo caso. In un periodo storico come quello attuale, in cui è necessario bilanciare, no? E soprattutto andare a stoccare anche la CO2, l'anidride carbonica, quindi perdere le piante di quel tipo al massimo della loro crescita e della loro efficienza comporta questo. E parliamo di ettari comunque di superficie sacrificata, ecco, per far spazio a queste opere. Fabio, un'altra cosa, ma ha realmente effetto la pratica di creare aree verdi urbane per abbattere le emissioni di CO2 in forte aumento durante la preparazione poi di questi grandi eventi? Beh, generalmente è considerata sicuramente una pratica positiva per migliorare la qualità dell'aria, e come dicevo poco fa, in pratica l'assorbimento della CO2, ecco il dato principale, è l'aspetto principale, il meccanismo principale che interessa, ecco, oltre che ovviamente la conseguente produzione di ossigeno. Ma nel contesto della preparazione dei giochi, diciamo che il fatto che non siano di nuovo state valutate le opere rispetto alla VAS, non ci permette di calcolare, di misurare, no, la reale efficacia di questo tipo di interventi. Perché qua si tratta, lo ribadiamo sempre, di approccio scientifico a questi temi e ci vogliono delle metodologie per misurare e per poi dai dati poter anche dare un giudizio eventuale, no? Comunque nel bilanciare l'impatto delle infrastrutture sicuramente un minimo di beneficio viene dato dalla nuova piantumazione, sempre che, come dicevo poco fa, anche questo non si vadano poi a sacrificare delle aree verdi mature in uno stato ovviamente di crescita già avanzata. Sì. Senti Fabio, una figura che diciamo è protagonista di queste Olimpiadi 2026 è Giovanni Malagò. E volevo chiederti una cosa, se ti risulta che è stato uno che ha sostenuto a lungo la tesi delle Olimpiadi a impatto zero. Diciamo che nei presupposti il dossier di candidatura di Milano Cortina 2026, presentato appunto al Comitato Olimpico Internazionale, il CIO, l'11 gennaio 2019, erano ottimi i presupposti, perché sì, poteva veramente essere la prima Olimpiade che sarebbe andata a rispondere poi a quell'agenda del Comitato Olimpico stesso, che promuoveva e sollecitava un riutilizzo delle strutture già esistenti, e quindi veramente poteva essere sulla carta, è rimasto sulla carta questo dato e questo buon proposito, un'Olimpiade sostenibile. Ma così l'abbiamo visto da subito, non è, ecco, e lo diciamo perché inizialmente nel dossier appunto era stato promesso che oltre il 90% degli impianti utilizzati sarebbero stati esistenti o temporanei, ad esempio la pista da bob era inserita all'interno del dossier olimpico come una riqualificazione della vecchia pista delle Olimpiadi del 1956, in realtà si tratta di una pista totalmente nuova, ecco. Quindi c'è stata la demolizione della pista precedente, dismessa diversi anni fa, per inutilizzo e ovviamente per dei costi di gestione molto elevati, e quindi per generare una nuova pista. E così, come la pista da bob, altre strutture. Nel caso di Milano, diciamo, si tratta di un recupero di alcune aree, ma come abbiamo visto per il villaggio olimpico proprio di Milano stesso, c'è una riqualificazione, ma che i cui effetti quindi possono sembrare positivi per la riqualificazione di un'area, ma vedremo le ripercussioni in futuro sul tema della legacy, sul tema dell'eredità olimpica, in cui si genererà probabilmente un problema sociale legato al riutilizzo di quelle strutture del villaggio olimpico. Quindi diciamo sì che Malagò, e in realtà come presidente del CONI, ma in realtà tutta la Fondazione Milano Cortina e tutte le rappresentanze politiche che erano così felici, insomma, nel momento della vittoria per aver ottenuto appunto le Olimpiadi in casa Italia, ecco, nel 2026, in realtà abbiamo capito che è stato un po' una tanto fumo, ecco, una macchina del fumo che attualmente adesso cominciamo a fare un po' di chiarezza e vediamo poi i reali costi. Dovevano essere Olimpiadi a costo zero, in realtà sono Olimpiadi a 10 zeri e oltre, siamo arrivati a 5 miliardi e 7 attualmente. Infatti ce lo diceva anche Gigi Casanova nella puntata scorsa. Fabio, invece volevo chiederti, ma Uno dei punti fondamentali, secondo me, è la mancanza della neve sulle montagne, ovviamente dovuto al cambiamento climatico, e per compensare la mancanza di quella naturale, si sta puntando sull'innevamento artificiale, ma questo non solo per le Olimpiadi del 2026, ma già da qualche anno. Quanto in termini ambientali impatta l'innevamento artificiale? Beh, sicuramente moltissimo se pensiamo al fabbisogno energetico, no? Per far funzionare sia i cannoni sparaneve, sia l'utilizzo delle risorse idriche, cioè la quantità d'acqua necessaria. E diciamo che noi lo chiamiamo ormai accanimento terapeutico. E viene definito così da Wanda Bonardo, la presidentessa, appunto, è un po' la referente legamente Alpi, che cita anche questa e usa questa immagine molto forte per dire appunto che ormai è insostenibile anche l'utilizzo dei cannoni sparaneve, sebbene comunque la tecnologia avanzi anche in quel settore, ovviamente. A livello energetico c'è una resa efficientissima, eccetera. Il problema è che comunque, lo vediamo, si contano 260 impianti dismessi, altri 177 temporaneamente chiusi, perché anche lì dove c'è l'impianto di neve artificiale non basta, perché le temperature, soprattutto il tema non è tanto quante precipitazioni ci sono, cioè la quantità di precipitazioni, quanto le temperature, quindi la permanenza, la durata a terra, no, di quella neve. Perché? Perché le temperature minime si stanno sempre di più alzando, e quindi ovviamente anche gestire un impianto di discesa e di innevamento di conseguenza sta diventando sempre più complicato dal punto di vista soprattutto economico. E per far fronte a questa situazione, le amministrazioni locali e regionali hanno erogato spesso aiuti economici, ovviamente, quindi finanziando questo innevamento artificiale e la manutenzione stessa utilizzando fondi pubblici. Il grosso problema, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, è la mancanza di un'unica rendicontazione, no? E quindi non si riesce a quantificare con precisione il totale di quegli aiuti che sono stati erogati, anche perché accedere poi ai bilanci delle aziende e delle imprese che gestiscono gli impianti di innevamento è abbastanza complicato, ecco, spacchettare, no, le varie voci all'interno dei bilanci per poter dire cosa sta succedendo, ma conviene veramente continuare così? E, ecco, questo è un po' il dato preoccupante e motivo per cui appunto si chiama, lo definiamo accanimento terapeutico. Sì, appunto, io volevo proprio chiederti, parlare un po' del fattore economico di questa forte crisi del turismo invernale, no? Quindi ti volevo chiedere se sai rispondermi o se hai un'idea di a cosa è dovuta questa crisi e se invece di investimenti a pioggia, come si può contrastare anche lo spopolamento delle montagne, che in un certo qual modo è legato con tutto questo di cui stiamo parlando? È una domanda da 5,7 milioni, 5,7 miliardi, ecco, di euro. No, è molto complicata e qua c'è una questione, secondo me, di approccio, no? L'approccio deve essere sistemico. Non c'è un'unica ricetta, ma è un insieme di ricette che vanno ovviamente anche. Ecco, è come proprio la cucina, no? Ogni regione, poi ogni area, ogni valle ha la propria interpretazione di una ricetta, che magari gli ingredienti sono in comune, e poi però la va a perfezionare. E sicuramente per contrastare lo spopolamento, le strategie, come dicevo poco fa, non devono far sì. Affidamento ai finanziamenti, ma è necessario una diversificazione dell'offerta, no, turistica, quindi finanziamenti per i vari settori, andando poi a promuovere quelle attività che rispetto al, come dicevi poco fa, rispetto alla situazione che stiamo vivendo, quindi un incremento delle temperature, delle stagioni che stanno cambiando rispetto anche alla durata stessa, no, dell'estate in particolar modo, una riduzione dell'inverno, quindi attività realmente sostenibili rispetto anche all'impatto, come l'escursionismo, come il cicloturismo, come altre forme di turismo lento, ecco, che non dipendono esclusivamente dalla presenza o meno della neve. E qua però, anche in questo caso, vediamo alcuni casi in cui c'è stata una sovraesposizione, ad esempio, dell'offerta, dei pacchetti legati al cicloturismo, in cui c'è stata una trasformazione eccessiva anche rispetto, quindi si ragiona quasi sempre per monoculture, no? E quindi lì dove c'è la possibilità, non c'è più la neve, ma c'è una situazione perfetta, c'è un investitore che dice puntiamo tutto sulla mountain bike, sulla discesa, tutto diventa legato a quello, che va molto meglio rispetto all'impatto ad esempio del turismo, degli inquinamenti artificiali, lì dove non c'è più neve e dove è più possibile produrre neve, ma appunto dobbiamo stare un po' attenti agli estremi, e in questo la diversificazione è fondamentale. E ovviamente ciò per contrastare lo spopolamento bisogna investire in servizi essenziali, lo vediamo nella conca ampezzana, ma non solo, insomma tutte le vallate attorno nell'area del Cadore, e parlo qui del Veneto in particolare, ma la situazione è la medesima in altre aree delle Alpi e anche dell'Appennino. In questo caso sanità, istruzione, la connettività digitale sicuramente è un fattore, no, che promuove un certo tipo di permanenza in alcuni territori, soprattutto rispetto alle esigenze dei più giovani, in cui c'è il remote working, c'è tutta una possibilità altra, no? Soprattutto renderlo possibile per le famiglie, cioè il tema che stanno chiudendo, lo vedremo fra qualche settimana con un appuntamento ad Oronzo di Cadore, stanno chiudendo le scuole. Non c'è più la possibilità, non si riescono più a formare delle classi, e questo è tremendo, ci fa capire che la situazione è quasi a rischio definitivo, ecco, mi viene da dire, e soprattutto ripuntare, e lo stiamo facendo anche assieme a Cipra Italia e Cipra Slovenia, la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, rispetto alla promozione di quelle attività e quei lavori, come la pastorizia, la gestione forestale, che sembrano, no, come detto, sì, vabbè, i pastori, ma di cosa stiamo parlando? In realtà sono attività imprenditoriali necessarie per la sopravvivenza di alcuni territori, perché si parla di cura, no? E di gestione. Di un ambiente che è un ambiente a rischio, si viene totalmente lasciato in abbandono, ok? Quindi va gestito, e al contempo, ad esempio, anche la parte di tutti quel tema di agricoltura e allevamento, anche in questo caso rispettosi e in sintonia, in sinergia con il territorio, che rendono poi quei territori realmente utili anche, no? E quindi qua si ritratta di ricreare quella relazione uomo-natura, e quindi ritornare a un concetto di ambiente di cui noi siamo parte. E se io direi prima natura e poi uomo, prima ambiente e poi uomo, di cui ovviamente l'uomo è parte dell'ambiente. E riconnettere, ad esempio, nei percorsi scolastici che mirino proprio alla tutela, e ne vediamo di tanti di esempi, dall'Università di Udine, ma anche quella di Torino e di Milano, che assieme hanno fatto l'Università della Montagna, e serve investimenti in questo senso, dal nostro punto di vista, in cultura e formazione. Sì, no, mi è piaciuto molto quest'ultimo pezzo. Pensavo al, come, diciamo, come slogan, vabbè, l'utilizzo dei territori e non lo sfruttamento, no? Esatto, sono due cose ben differenti, Sì. e perché poi di fatto è una, cioè, reciprocità, cioè se io gestisco correttamente, e questo è un qualcosa che ha delle proprie fondamenta da centinaia di anni, insomma, se le regole ampezzane in particolare, che sono di una proprietà collettiva, proprio nate per un uso collettivo dei boschi e dei pascoli, sancivano esattamente questo, no? Istituivano proprio una corretta gestione del bosco, che è un patrimonio della collettività, un bene comune, e regolamentavano il cosa tagliare, quando tagliare, quanto tagliare, chi doveva accedere a quel tipo di legname rispetto ad altro. Idem i pascoli, il pascolo è fondamentale perché anche in questo caso parliamo di torbiere, parliamo anche di altri ambienti in ambito montano, che sono fondamentali anche rispetto ad esempio alla riduzione della CO2. Mi viene sempre in mente uno degli impianti di salita ai piedi della Tofana, e se si va in questo periodo, in febbraio o marzo, essendo una torbiera, è ovviamente un'area umida di incredibile valore economico anche, non solo paesaggistico, naturalistico, ma economico. Sono fonte di è la forma più avanzata di tecnologia per lo stoccaggio della CO2, e la stiamo devastando per far spazio o da una parte a villaggi turistici o dall'altra ad impianti di risalita. In questo caso un impianto che è quasi in discesa e porta giù le persone per fare questo collegamento comprensorio. Scusatemi, poi mi dilungo, i collegamenti sono talmente lampanti, basterebbe veramente accompagnare con uno sguardo critico le persone a fare anche questo tipo di turismo. E il turismo rendiamoci conto del pregio, del valore che questi beni comuni ci donano quotidianamente, quindi in questo caso l'utilità. Ecco, se noi doniamo, ci rendiamo, se siamo utili alla foresta, la foresta sì è utile. E ricostruire un po' questo, ecco. Fabio, uno diciamo dei punti fondamentali secondo me, dello spopolamento delle comunità montane, oltre a tutto quello che tu hai detto, è la perdita che c'è stata dei posti di lavoro negli ultimi anni, o sbaglio? Sicuramente, guardi, io faccio sempre riferimento alla zona che più conosco, cioè Qualcadore, in cui si è investito tantissimo nell'industria degli occhiali, dimenticando totalmente tutto il resto, cioè nella dimensione dell'accoglienza, del turismo. Penso sempre alla zona di Calalzo, Domegge, fino a Santo Stefano di Cadore, zone incredibili bagnate dal torrente, in quel caso il regime torrentista del Piave, che anche, ripeto, ha un pregio proprio paesaggistico incredibile, in cui si è fatta industria. È ovvio che a un certo punto, per problemi, ovviamente difficoltà di sostenibilità economica rispetto ai trasporti, rispetto all'accessibilità, rispetto a tutto un mercato che si è aperto, ovviamente alla globalizzazione in questo caso ovviamente ha avuto un'incidenza, e io credo che l'errore più grosso sia stato anche in questo caso focalizzarsi su un unico settore, pensando che potesse dare poi avere un futuro e quindi non subire mai il colpo, no, dei mercati. In realtà lo stiamo vedendo anche rispetto alla resistenza che l'industria e il comparto dello sci sta avendo. Quindi, nonostante la situazione sia quasi insostenibile per buona parte delle località turistiche al di sotto dei 1500 metri, ci si ostina. E questo ritorna il tema dell'accanimento terapeutico, ci sostiene a cercare, no, di di salvare un qualcosa che è ormai spazzato. E perché? Perché in realtà non si ha più la capacità di vedere altro se non quello, quindi si pensa all'unica opportunità che abbiamo per creare posti di lavoro è l'industria, si quindi responsabili dei gatti delle nevi, quindi la manutenzione delle piste, gli impiantisti, i maestri di sci, eccetera, eccetera. Quindi si guarda solo a quello e l'accoglienza è tutto legato al tema neve. La grande capacità credo sia proprio, e in questo quanto dicevo prima è fondamentale, cioè formare a nuove professionalità, quindi fare un nuovo bilancio delle competenze di tutti quei lavoratori che attualmente sono impiegati nell'industria dello sci, per dire cosa potresti essere in grado di fare qualora non fosse più sostenibile rimanere in quel settore lì, e già farlo adesso, fare un investimento in questo senso, perché è ovvio che la paura di un futuro diverso ti porta a difendere fino all'ultimo, no? Quanto tu hai vissuto finora. Quindi anche l'accettazione della crisi climatica, io credo che spesso venga da questo, da un qualcosa legato più a un'emozione che è la paura, che se non ben governata a livello anche politico, blocca. Ok, non vede altre possibilità, e di conseguenza io credo che accompagnare al vedere e immaginare nuovi scenari che sono qui e ora, ma in alcune zone prima di altre, ecco, arriverà l'impatto, sia fondamentale, e in questo c'è una responsabilità politica, ecco, di creare questa visione. Sì, a proposito di crisi climatica, io ti volevo chiedere questo, perché è un dato di fatto che la neve manca sulle montagne ormai ogni anno sempre di più, e l'Italia punta sull'innevamento artificiale. Questo, a mio parere, crea un cortocircuito, perché sono due azioni che insieme non sono sostenibili. Ecco. Ma quanto in termini ambientali impatta l'innevamento artificiale? Beh, qua vi posso citare dei dati proprio puntuali. L'esempio è che per innevare artificialmente ovviamente tutte le piste italiane, la stima è di 95 milioni di metri cubi d'acqua per stagione e 600 gigawattora di energia. Cioè, quindi l'equivalente in termini energetici del fabbisogno di una città da 1,5 milioni di abitanti. Ecco. Questo credo sia fondamentale tenere a mente, che qualcuno sostiene, no, che comunque produco neve artificialmente, certo, ma produco neve, quindi non consumo acqua perché rientra nel ciclo dell'acqua. Il tema che non è così, perché non consideriamo poi appunto gli additivi utilizzati, spesso appunto anche la capacità di ritorno nel ciclo dell'acqua, non è come, cioè, si pensano che quando stiamo nel ciclo dell'acqua sia un continuo come un rubinetto e che quindi ritorna dentro e velocemente, è un ciclo ovviamente molto lungo nel tempo, banalmente, cioè, lo sto banalizzando e semplificando perché credo sia importante anche poi parlare abbastanza se c'è bisogno di approfondimenti, insomma, la letteratura e la bibliografia è enorme, e vi invito appunto anche a leggere i vari report e dossier che produciamo annualmente, sia noi Legambiente che poi altre associazioni che assieme a noi appunto indagano questi temi. E ovviamente, ripeto, 95 milioni di metri cubi d'acqua e 600 gigawattora di energia comporta uno stress enorme a livello ambientale. Se pensiamo anche in questo caso, Cortina, vi porto sempre questo esempio, Cortina, Torrente Boite, che già poco a monte rispetto al centro abitato, già presenta dei livelli di inquinamento abbastanza elevati, soprattutto in termini di Escherichia coli, e quindi anche qua batteri fecali e spesso non corretta il trattamento delle acque reflue, diciamo che viene già, mi viene l'esempio della pista da bob, in cui è stato vietato il prelievo di acqua per la fase di ghiacciatura della pista. Perché? Perché si era già superato quello che è il minimo, quello che era il minimo deflusso vitale, attualmente chiamato deflusso ecologico, cioè quella quantità d'acqua che deve, minima, che deve rimanere in torrente per poter garantire la vita all'interno dell'ecosistema fiume, in quel caso all'interno del torrente. Perché cosa fa? Dove va a finire quell'acqua lì? Viene prelevata per l'innevamento artificiale, quindi per riempire i bacini artificiali costruiti appunto lì sotto della Tofana. E quindi c'è proprio uno stress sulle risorse idriche, che già sono stressate per il riscaldamento globale, no? Però proprio un cambiamento, una crisi climatica, la crisi climatica in corso. Se pensiamo, vi do un altro dato per capire che i numeri sono molto importanti, il dato di Cortina d'Ampezzo rispetto al riscaldamento, di quanto si è scaldata, ecco, in queste vi do un range, scusate, ve lo prendo subito. C'è stato un incremento di 2,4 gradi, ok, nel decennio 2009-2018. O meglio, negli anni 60 l'incremento era di 2 gradi, nel decennio 2009-2018 è stato di più 4,4 gradi, e quindi l'aumento è stato di 2,4 gradi medio. Ed è pazzesco. Perché le temperature aumentano maggiormente nell'arco alpino rispetto alla pianura. In molti casi, Treviso, vi faccio un esempio, l'incremento è stato per lo stesso arco temporale di 1,8 gradi. Quindi capite che cosa significa stressare le risorse e le riserve idriche in ambiente alpino, significa accelerare tutta una serie di fenomeni anche in pianura, quindi scendendo dal lungo il corso dei fiumi, ecco, anche a livello di agricoltura, no? L'impatto, e quindi anche di potenziali conflitti legati all'uso dell'acqua. E in questo l'innevamento artificiale, io credo che abbia un impatto enorme, anche dal punto di vista non solo ambientale, ma anche sociale ed economico, ripeto, perché i costi dell'energia, l'abbiamo capito anche recentemente, lo vediamo nelle nostre bollette, in questo momento, soprattutto per non voglio inoltrarmi in altri temi, comunque ecco, si fa sentire, ecco, l'impatto dell'energia. Certo. Rimanendo sulla crisi climatica, io trovo corretto, giusto, rapportarsi anche con quello che succede oltre confine. Si hanno notizie di come stanno affrontando le nazioni a noi vicine in Europa questa emergenza? Allora, vi posso anticipare che è in atto, diciamo, un manifesto che vedrà coinvolti, che coinvolte le varie vari paesi della macro regione alpina. È un manifesto che va, diciamo, per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse ai ghiacciai. I ghiacciai come componente fondamentale del ciclo idrologico, no? E quindi come sentinella del cambiamento climatico e soprattutto come fonte di approvvigionamento principale, non l'unico, ma il principale, per l'acqua, insomma. E a livello di altri paesi della macroregione alpina, diciamo che c'è un'attenzione, approcci differenti, soprattutto a livello di gestione forestale, eccetera. Però ahi noi, lo vediamo anche in Svizzera, recentemente il referendum rispetto all'attenzione o meno rispetto ai temi ambientali, al raggiungimento o meno di alcuni obiettivi, no? Soprattutto a livello di emissioni. C'è sempre di più una disaffezione rispetto a questo tema, perché dal mio punto di vista c'è una grossa preoccupazione generale, no? Di cosa potranno essere le conseguenze, quindi non è ci siano grandi, e lo vediamo anche la tendenza mondiale, no? Addirittura gli Stati Uniti che minacciano di ritirarsi dall'IPCC, dal panel sui cambiamenti climatici, e, insomma, e dai vari patti che dovrebbero andare appunto a rispettare quegli obiettivi per cercare di rimediare a quanto anche a livello antropico è stato fatto in questi ultimi decenni. È una velocizzazione della crisi climatica sostanzialmente. E le montagne, come dicevo poco fa, si stanno riscaldando a una velocità doppia rispetto al resto del continente europeo in particolar modo, e quindi si sa più o meno, no? Si riesce a prevedere quali possono essere le conseguenze, quindi la perdita di risorse naturali, l'instabilità geomorfologica, perché la fusione dei ghiacciai, con la fusione dei ghiacciai c'è la fusione del permafrost, di conseguenza la tenuta di tutte quelle rocce al di sopra, di tutti quei massicci al di sopra dei 2000 metri, ad esempio, lo vediamo anche sul Chorapis, su altre aree. E l'idea è quella di provare a unire le forze tra paesi della stessa macroregione alpina, e anche mantenendo una diversità di sguardi e di approcci in funzione del dove si è, e quindi preservando anche un po' quello che è la propria il proprio approccio, ma unendolo e facendo per questo proprio un'idea di governance generale, ecco, quindi avere delle linee guida in cui poi da lì si tramutano in azioni concrete, e le soluzioni principali sono quelle delle nature-based solution e delle infrastrutture verdi, per, diciamo, anche provare ad agire nel contrastare, nel mitigare gli impatti. Di Fabio, ma a proposito del permafrost che si scioglie, poi comunque abbiamo alluvioni devastanti, lo zero termico in alta quota in pieno autunno, sono comunque realtà delle nostre montagne, una realtà che però contrasta con l'ostinazione di chi continua a produrre a proporre un modello di sviluppo anacronistico e predatorio basato soprattutto sui grandi eventi come i giochi invernali, e soprattutto poi dove anche in montagna viene replicato un modello turistico come purtroppo accade nelle città italiane, quelle prese d'assalto dai turisti, ma per salvaguardare le montagne c'è la possibilità di un turismo sostenibile? Io penso di sì. Poi lo cito spesso, cioè Pertini, che sosteneva che alle volte bisogna saper lottare, oltre che senza paura, anche senza speranza. E spesso mi viene a dire che sono anch'io un po' senza speranza, ma in realtà non posso dirlo. No, mi viene a dire che di buone pratiche ce ne sono, di esempi a cui far riferimento per sviluppare un modello di turismo sostenibile in montagna. Ci sono, e vi invito, se avete piacere, di scoprire quelle che sono queste buone pratiche, che ad esempio come Legambiente, grazie alla Carovana delle Alpi, segnaliamo annualmente, sia dal punto di vista della pratica di gestione, ad esempio, dei rifugi, ma soprattutto anche come pratiche culturali, in cui c'è la promozione, no, di un'alternativa. E il problema è che il turismo di massa e i grandi eventi, appunto, comportano un impatto elevatissimo, soprattutto in consumo di risorse e di trasformazione del territorio. Quindi Se tu da una parte promuovi il turismo sostenibile, ma dall'altra si continua a investire e trasformare negativamente, impattando e cementificando, poi a un certo punto bisogna fare una scelta, quindi perché tu puoi investire tantissimo in turismo sostenibile, dall'altra parte però magari vai a proporre un qualcosa in un territorio che poi subisce una cementificazione e siamo appunto a capo. Le alternative sostenibili, ecco, tornando sulla parte propositiva, può essere, come dicevamo prima, il turismo lento e diffuso, il promuovere delle pratiche che vanno al di là della necessità di avere o meno la neve. Quindi il trekking anche in questo periodo in cui se voi salite in montagna, anche ieri facendo un sopralluogo in un'area dove avviene l'inanellamento di varie specie di fauna, e anche questo è un esempio, lo sto dicendo proprio apposta perché anche il trekking naturalistico, quindi non solo quello di performance per l'attività sportiva, ma anche proprio di conoscenza, è possibile. Ci si rende conto che le temperature erano elevatissime, 14 gradi a Cortina 2 giorni fa, ben al di sopra della media stagionale. Capiamo che camminare è possibile, è abituare le persone e quindi abituare anche poi le strutture e chi gestisce le strutture ad invitare le persone a vivere in maniera corretta e attrezzandosi correttamente, ovviamente, una nuova stagione della montagna, no? Quindi un febbraio senza neve lo vediamo ormai da qualche anno. In alcune località, non dappertutto, e non è possibile generalizzare. La mobilità sostenibile, anche qua io credo che sia fondamentale, il come poi raggiungiamo alcune mete. E questo rende poi sostenibile il nostro permanere in alcune aree. Quindi, se il rifugio, e in questo mi viene in mente un rifugio al di sotto la Tofana, un rifugio elimina la possibilità di accedere e quindi pernottare, eccetera, utilizzando, quindi facilitando l'accesso con l'utilizzo di motoslitte, è ovvio che arriverà al rifugio una certa tipologia di persone che quindi ha veramente voglia di salire e che probabilmente a piedi, ritornando a fare un po' di fatica, con i giusti comfort poi dati da degli scarponi, dei ramponcini, delle bacchette, e quindi anche in questo caso ri ritornare a promuovere un uso anche lento della montagna, no? Del turismo e della fruizione dei sentieri responsabile. Cosa comporta invece, perché hanno rifiutato di accompagnare, di continuare a portare su, accompagnare le persone in motoslitta? Perché oltre ad avere sicuramente un profitto altro, avevano dei ricavi sicuramente più alti, no? Perché avevano molto più flusso di persone, ma hanno detto, ci recano molto più problemi perché non capiscono la qualità del cibo e il rapporto qualità-prezzo, no? E quindi non davano il giusto valore alle proposte anche culinarie, banalmente. Non riescono a capire che non si può tenere aperto il rubinetto perché l'acqua non c'è qui su o comunque è limitata. E quindi invece se ritorniamo a far gustare un po' la fatica del raggiungere a piedi in un'oretta e mezza, 2 ore, il rifugio diventa tutto realmente più sostenibile e anche più godibile per chi gestisce l'attività che non fa solo profitto, ma si prende, come diciamo prima, cura anche del contesto montagna. Limitare il consumo di suolo e infrastrutture, quello è il primo, come dicevo prima, è il primo elemento che promuove un utilizzo altro, e qua mi dispiace parlare di nuovo di utilizzo, ma in questo caso il turismo è questo, altrimenti non parleremo di turismo. Cioè, vado a fruire di un beneficio che mi reca quell'ambiente, no? L'importante è saperne fruire correttamente. Se io come politica, ecco, come amministratore territoriale, dovessi cominciare a promuovere un turismo sostenibile, comincerei con un limitare il consumo di suolo. limitare le infrastrutture, un riqualificare l'esistente, un promuovere le filiere locali, ce ne sono di incredibili in lungo tutto l'arco alpino, un promuovere l'artigianato, le attività tradizionali, che possono essere collegate col mondo. Non è vero che è una cosa retro, anzi, ecco, c'è anche in questo, c'è molto da approfondire, e ripeto, il turismo naturalistico e culturale, cioè, e qua a livello antropologico, di indagine antropologica ci sono tanti esempi, cito Filippo Tantillo, ad esempio, tra i vari, secondo me, teorici anche un po' dello sviluppo delle aree interne attraverso il fare cultura, quindi come primo elemento per riavvicinare e ricostruire quel senso di comunità anche all'interno delle vallate stesse, perché mi immagino e sento anche costantemente questa difficoltà una parte dei cittadini e cittadine di Cortina, ad esempio Cortina d'Ampezzo, che soffrono, no, il fatto di non aver più una comunità coesa, perché si pensa solamente al profitto, ma mentre i servizi della città, quindi si cammina lungo la pista ciclabile e sono i cestini che sono strabombi di immondizia, e si sente puzza di... ecco, ritorno sempre alla questione dei reflui, perché secondo me è quello che l'olfatto, ecco, è il senso che si attiva ai noi sempre di più, sia in città ma anche in paesi alpini, perché c'è un eccessivo un numero eccessivo di persone, oltretutto mal distribuite, perché anche in questo senso c'è un altro pensiero da fare, che è quello appunto di provare a fare un pensiero sulla distribuzione, ecco, distribuzione appunto e la promozione in alcuni contesti. L'altro esempio, e ultimo, scusatemi, poi mi faccio proprio prendere da questi temi, mi si aprono tanti link. L'esempio, 2 settimane fa, nell'area della foresta del Cansiglio, che è un'area stupenda, meravigliosa, al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, dove ad esempio c'è sia un livello storico, paesaggistico, culturale e di anche qua ingegneria naturalistica, grazie a delle strutture naturali meravigliose, e una carissima amica di uno dei rifugi, il Rifugio Vallorc, che è proprio una delle promotrici di questo proposito di turismo sostenibile, diceva: ma a me sembra impossibile, era una giornata di pioggia lieve, quindi anche piacevole, con questi colori, queste tinte incredibili per questa stagione. Diceva: mi hanno disdetto la prenotazione una sessantina di persone, spaventate dalla pioggia e soprattutto perché non c'era la neve, e guardando fuori c'era un tramonto incredibile, c'era la faggeta che era un dipinto, era veramente un dipinto, e quelle 6 persone che erano lì presenti in quel rifugio, che oltre a essere un ottimo luogo di ristoro è soprattutto una famiglia che ti accoglie, una famiglia proprio che ti fa scoprire la bellezza della montagna e di un ecosistema che ci facilita anche ci aiuta a comprendere anche un beneficio psicologico. Quelle 6 persone erano le persone più felici del mondo, perché non c'era nessuno in piana e quindi non c'era il traffico e non c'era. Anche in questo senso probabilmente va fatto un pensiero proprio di riflessione su come viene promosso il turismo, e questo è un grande errore dal mio punto di vista. Io parlo per la regione del Veneto, in cui si è fatto, in cui si prendono le persone da Venezia, si tolgono da Venezia per portarle a Cortina, dimenticandosi che poi c'è il Palladio, ci sono delle città meravigliose come Vicenza, la parte di Bassano, Treviso stessa, eccetera. Non vuole passare per uno spottone local, ma la cosa interessante è questa: riuscire veramente a guardare e a dare un valore a tutto ciò che abbiamo, sapendolo gestire, non solamente perché dobbiamo approfittarne, ma perché vogliamo veramente valorizzarlo. Ecco. Sì, paradossalmente, Fabio, queste realtà che comunque promuovono un tipo di turismo sostenibile, verranno completamente, dico io, verranno completamente tagliate fuori dal volano che produce le Olimpiadi. Questa è la mia idea. La domanda che però ti volevo fare, che ho fatto anche a Gigi Casanova nella scorsa puntata, è cosa sarà il dopo Olimpiadi nelle località coinvolte dall'evento? Allora, escludendo anche questo caso Milano, in cui vedremo gli effetti, soprattutto come accennavo inizialmente, all'inizio di questa intervista, per l'esempio del villaggio olimpico, secondo me, di Milano è eclatante rispetto appunto al futuro, sarà uno studentato, ma non molto inclusivo, ecco, e quindi non proprio accessibile a tutti. Milano, ripeto, è un'altra dimensione. È stato inserito nel dossier anche Cortina perché bisognava dare l'immagine alla montagna, no? E Cortina è sempre stata dipinta come la regina delle Dolomiti. Quindi non ho dubbi che qualcosa di legacy a Milano potrà esserci, ma ve ne parlerà meglio probabilmente il comitato che a Milano appunto sta presidiando e sta analizzando in maniera molto puntuale anche il dopo Olimpiadi. Né se parliamo invece di località come Cortina, come Anterselva, come Baselga di Pinè e quindi la parte di Livigno, la grossa preoccupazione rispetto a Cortina, ad esempio, è una grande cattedrale nel deserto, come rispetto alla pista Bob, come è successo per Torino 2006, e non è servito a nulla quella lezione. E oltretutto pensiamo all'impatto che avrà la gestione annuale di quella pista lì, e la stima è di 1,5-2 milioni di euro all'anno per gestire una pista che sarà difficilmente poi riconvertibile. Diciamo, a livello di federazione sono anche pochi gli atleti che praticano le tre discipline, Bob, Skeleton e Slittino. Quindi cosa lascerà? Lascerà anche nelle casse comunali e regionali, quindi a livello di fondi pubblici, un grosso buco. Un grosso buco e quindi una grossa difficoltà per le amministrazioni successive nel dover amministrare anche quindi dei bilanci, dovendo dedicare, no, dei fondi a strutture del genere. E soprattutto anche un'incapacità, parliamo ad esempio delle infrastrutture legate alla viabilità. Un grande caos, perché attualmente le tangenziali, le varie varianti non sono concluse, non saranno concluse per le Olimpiadi, quindi vedremo ancora cantieri, non sapremo se verranno concluse o meno nei tempi previsti. Addirittura faccio un altro esempio, alcune opere o la variante di Cortina stessa era prevista per i mondiali 2021, e non le vedremo nemmeno per le Olimpiadi 2026. Quindi c'è un tema proprio di legacy, di impatto economico, di un patto di infrastrutture che molto probabilmente, quindi di consumo di suolo consumato è ormai perso e irreversibile, e cementificato, quindi aree cementificate, che saranno anche in quel caso poi dei vuoti, e soprattutto poi una sovraesposizione a livello anche mediatico di alcune aree che non hanno attualmente la capacità di accogliere più di quello che hanno accolto fino ad ora. E in questo io credo che sia poi una riflessione da portare, e lo vedrete anche nel dossier del Diverso 2025, da portare alle Olimpiadi francesi del 2030. E anche in questo caso promuovere realmente un utilizzo di strutture già esistenti e ragionare prima di tutto sulla legacy, e la legacy non è quanto lasceremo di costruito dopo, ma quanto lasceremo di spirito, anche di senso di comunità che si crea attorno al tema dell'ospitalità anche legata allo sport, perché per noi lo sport è comunque un'occasione di incontro, di pace, di riflessione, di dialogo, ma non può essere occasione di speculazione. In questo caso l'eredità sarà un'altra grande occasione di speculazione e non di promozione di altri modelli alternativi a quanti abbiamo visto fino ad ora. Fabio, a proposito di speculazione edilizia, perché alla fine è una reale emergenza, complici voi anche i grandi eventi, ci troviamo anche sulle montagne a fare i conti con colate di cemento nel mezzo di siti che dovrebbero essere tutelati. Come si può contrastare questo scempio? Come si può contrastare soprattutto le colate, come si possono contrastare soprattutto le colate di cemento? Contrastare le colate di cemento, io credo che sia fondamentale intanto partecipare, ritornare a partecipare un po' alla vita amministrativa, no? Quindi partecipare alla vita democratica dei territori e nella gestione dei territori, quindi consigli comunali, interessarsi a quelle che sono anche diciamo gli interventi e le decisioni che vengono prese a livello regionale, quindi monitorare, essere sentinelle, e in questo Libera e la rete Open Olympics di cui Legambiente fa parte, diciamo che secondo me dovrebbe essere fonte di ispirazione, cioè essere avere uno sguardo monitorante sempre, ritornare a essere cittadinanza attiva, perché poi qualora dovessero esserci degli agguati, come dire, vediamo che di nuovo si sta proponendo un intervento che non rispetta, che non ci sembra rispettare, ad esempio, le leggi regionali o le direttive comunitarie rispetto al contenimento del consumo di suolo o l'utilizzo di alcune risorse, lì possiamo poi fare la nostra parte, coinvolgendo in questo caso, ad esempio, le associazioni che possono essere farsi corpo intermedio, quali sono, no, tra le istanze della cittadinanza e le istituzioni, ma essere poi tutti assieme, non è solo responsabilità delle associazioni, è responsabilità della cittadinanza, è responsabilità collettiva. E quindi sollecitare alla politica un approccio realmente partecipativo, soprattutto lì dove si hanno in mente dei progetti che avranno un impatto per la collettività, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista proprio della trasformazione in negativo del territorio. Quindi il limite, il come limitare il consumo di suolo teoricamente dovrebbe essere già limitato dalle leggi regionali. Mi viene in mente la legge 14/2017, che adesso sta subendo una revisione che è applicata qua in Veneto, ma anche in Lombardia, ma anche in altre regioni d'Italia viene recepita una direttiva che è una direttiva poi europea. E quindi anche in questo caso fare valere quelle che sono le norme. In questo caso l'approccio delle Olimpiadi è stato di semplificazione di alcuni iter, e quindi anche qua richiedere che vengano poi affrontati tutti i passaggi e le valutazioni necessarie, compreso l'inclusione della cittadinanza un po' come si fa in Francia. Ecco, la Francia da questo punto di vista è abbastanza avanti a livello di normative, e il dibattito pubblico è proprio normato ed è una fase obbligatoria. Dovrebbe esserlo anche qui in Italia nelle varie valutazioni di impatto ambientale, eccetera, ma poi di fatto si fa veramente molta difficoltà a parteciparvi, perché per tempistiche, per comunicazioni, per trasparenza. Quindi in questo caso è farsi di nuovo cittadini attivi, sapendo che ovvio solo assieme possiamo cercare di contrastare, ecco, una nuova colata di cemento. Sì. Allora, Fabio, io prima di arrivare ai saluti volevo porti un'ultima domanda. Abbiamo parlato tanto di montagna, utilizzando chiaramente l'argomento delle Olimpiadi, abbiamo parlato molto delle montagne del Veneto, del Trentino Alto Adige e della Lombardia. Allargando il focus sulla montagna in Italia, che futuro c'è per la montagna italiana? Sappiamo che anche gli Appennini non è che godano di ottima salute, ecco. Diciamo che è necessario da parte nostra un cambiamento di paradigma e quindi è necessario proprio privilegiare una sostenibilità ambientale, ma non solamente a parole come slogan, ma come modello e come postura. In cui, come dicevamo un po' prima, diciamo, passa questo nuovo cambiamento paradigmatico attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle università, che possano poi andare a promuovere dei percorsi di studio che portino a una reale poi capacità di lettura dei territori e di gestione dei territori. Il futuro è nero se lo vediamo con il modello attuale, quindi con pratiche insostenibili come la costruzione di nuovi impianti. Vanno valorizzati quelli esistenti fino a quando sono utilizzabili. E poi da là provare a pensare a una riconversione, ma costruirne di nuovi rende appunto il futuro delle montagne nero. Promuovere questi modelli rispettosi dell'ecosistema montano è fattibile, ripeto, solamente se c'è una coesione, se c'è coesione tra i territori stessi, tra le comunità, che spesso si pensa facciano l'esistenza, no? Come dicevamo un po' prima, ma in realtà poi è solo questione di fornire una possibilità a altre e quindi renderle veramente visibili e tangibili. Passa attraverso il coinvolgimento degli amministratori e anche in questo caso vanno accompagnati in questo percorso di costruzione di altro modello altro, va con anche non solo agli amministratori locali, ma alla politica e quindi provare veramente a sollecitare e far ritornare l'attenzione. L'abbiamo visto con il DDL Montagna, in cui recente, in cui c'è un'attenzione rispetto a questo tema, ma non è sufficiente, ci vogliono anche competenze. E quindi anche in questo caso l'ecosistema della politica deve avvalersi di tante competenze e non può escludere quelle competenze che vengono anche dalle comunità. E in questo caso non solo le comunità locali, ma anche la comunità europea, perché solo grazie, ad esempio, a quanto dicevamo anche prima, a delle governance rispetto alle risorse idriche, quello dei ghiacciai ne è un esempio, si riesce poi ad andare da uno sguardo più satellitare a uno sguardo macro sulla più puntuale zona per zona ad offrire un nuovo modello e una nuova visione di montagna e che quindi si rendere questo presente un presente futuro e quindi già costruirlo adesso questo futuro della montagna e lo vedo già nei margini, cioè noi parliamo sempre di grandi no, è più facile parlare delle problematiche che vediamo in montagna di impatto no negativo. In realtà porre lo sguardo anche su quelle poche attualmente, ma in realtà positive che po possono diventare un modello è fondamentale. Quindi anche in questo caso illuminare queste buone pratiche e dare loro spazio e raccontarle di più. Ecco, già questo ci permette poi di illuminare il futuro delle montagne, insomma, e provare a cambiare questo paradigma. Penso che abbiamo racchiesto tutto a Fabio e quindi dobbiamo solo ringraziarlo per aver portato la sua testimonianza a A Radio Quar e a Olimpiadi Insostenibili. Veramente, Fabio, grazie della partecipazione. Grazie a voi dell'opportunità e vi seguirò, continuerò a seguire anche i Grazie, prossimi contributi. Fabio. Ti salutiamo e grazie veramente di cuore. Grazie, ciao. Grazie a voi, grazie.